voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You want my body? I'm giving a dance. Come on, baby, let me know. Hang a solo. E si è aperta così anche la seconda parte di Eclettica per quanto riguarda questa, che è esattamente la settimana numero... Sì, è la settimana numero 29 di Eclettica. Per un attimo mi stavo scordando di questo importante numero, importante ma non quanto quello di settimana prossima. I numeri tondi rendono di più l'idea, no? Giulio Caperdoni in vostra compagnia, Giulio at RadioRockFM.com, l'indirizzo con cui iscriversi alla lista nera di Eclettica, con cui portare a compimento quelli che sono i temi che vi do a casa. È un po' di tempo che non ve li sto dando perché, sapete, ho un piccolo problema di dislessia temporale, no? Fra chi ascolta in diretta, chi ascolta tramite il podcasting, quindi anche a qualche settimana di distanza. Sto cercando un po' la quadratura del cerchio. Ogni suggerimento, sempre lo stesso indirizzo, è ovviamente benvenuto. E poi a quell'indirizzo potete vincere anche i biglietti per i concerti, come due concerti che si stanno per tenere entrambi alla Casa 139 di Milano, rispettivamente martedì 9 e giovedì 11, ovvero sia Two Gallants per quanto riguarda giovedì 11 e invece Nico Case per quanto riguarda martedì 9. Noi ci siamo appena ascoltati la band di nome OK Go con A Million Ways, e visti i due nomi che vi ho appena fatto per quanto riguarda i biglietti in palio, ho deciso di andarmi a riprendere Hold On, Hold On, l'ultima di Nico Case. The most tender place, my- heart is for strangers. I know it's unkind, but my own blood is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time. Il mio nome, per legge, è Aleksandr Perkov, ma tutti i miei amici mi chiamano Alex, perché è una versione del nome più flaccida da pronunciare. Mia madre mi chiama Alexi, basta di ammorbarmi, perché è sempre la ammorbo. Se volete sapere perché è sempre la ammorbo, è perché sempre sono in altri posti con amici e seminando tanta moneta e eseguendo così tante cose che possono ammorbare mia madre. Mio padre mi chiamava Shapka per il cappello di pelliccia che calzavo in testa anche nei mesi d'estate. Poi ha smesso di dirmi così perché gli ho ordinato di smettere di dire così. Mi sembrava un nome bambinoso e io invece mi sono sempre pensato un uomo molto potente e inseminativo. Ho avuto una baldoria di ragazze, credetemi, e tutte per me hanno un nome differente. Una mi chiama Baby, non perché sono bambino, ma perché mi fa le coccole. Un'altra mi chiama tutta la notte. Volete sapere perché? Ho una ragazza che mi chiama Moneta perché attorno a lei spargo così tanta moneta che per questo bacia il terriccio dove metto i piedi. Questo era l'incipit di Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer. Without Morning Runner, non ci sono solo questi che ci siamo ascoltati che vi devo citare, ma anche quelli che hanno appena chiuso, però Morning Runner erano passati poco prima. Morning Runner, gruppo che non è che mi entusiasmi per originalità, e di sicuro non sono il solo che esprime questo giudizio, però la loro prova merita perlomeno un passaggio, ed è il motivo per cui ci siamo ascoltati Burning Benches così a qualche minuto da quando sto parlando. Invece il brano che si è appena chiuso è quello che era stato anche pillola, se non ricordo male, esattamente settimana scorsa. Sì, era settimana scorsa, all'inizio della settimana, una nuova prova da parte della Rough Trade. Rough Jam è il titolo del brano, Islands è il nome del progetto che nasce dalle ceneri degli Unicorn. Ed ora ritorniamo, e come sapete, già l'avevo anticipato, lo faremo spesso, su Lost and Found, quello che è il nuovo di Daniel Johnston. Al momento ci stiamo ascoltando History of Our Love. If there's any justice, let it be forever. Some fear that justice could be never, but it's ever. Love, it kept me going to make it through my broken life. Been watching as I walked on through the town, looking for love without knowing, as everybody put me down like a clown. Saw her long ago, pretty flowers in her hair. She worked at the funeral. I wondered if I could get a discount on a mound. Your Own Pet è il nome della band che ci stiamo per ascoltare, dove Be Your Own è scritto tutto in minuscolo e invece Pet è scritto in maiuscolo. Loro incidono per l'Excel Recordings. Adventure è il titolo del brano che stiamo per ascoltarci. Il loro sito è un sito veramente minimale, difficile trovare qualche informazione sulla band, ci sono solo dei riferimenti ad altri link oppure a che cosa si può accostare ai Be Your Own Pet. È una lista molto lunga, vi leggo quelli che sono i primi termini: caffeine, sugar, candy, spicy, food, vinyl records, XTC, television, T-Rex. Adventure! Ciao Giulio. Non t'ho più scritto e tantomeno fatto i compiti a casa. Che vergogna. Sono proprio uno studente poco diligente, uno di quelli che al solito non si applicano nonostante l'intelligenza. A proposito, hai mai sentito dire ad un insegnante: suo figlio si applica moltissimo, ma è senza speranza, è scemo? Solo per ringraziarti ancora per Eclettica, che è davvero unica. Sono andato a spulciarmi qualcosa sulle Smoosh, incuriosito dalla loro età, e ho scaricato alcuni brani sul sito della loro etichetta, dove si trovano cose niente affatto male. Ancora grazie a te il mio iPod, pur non tradendo i grandi che ho sempre amato, è sempre più eclettico. Oh, so che il tuo programma non è un programma di richieste, non ho idea di come tu organizzi le tue playlist, ma potresti mettere in onda qualche brano meritevole di attenzione di Lamb Chop o Magnetic Fields? Questa è la mia risposta. Sì, in effetti potrei, come ho fatto in passato, mettere sia gli uni che gli altri. I am your puppeteer, I am your organ grinder. If my monkey steals my money, I will send you out to find her. Pull the strings, boy. I could push you to the edge, baby, but I'd rather feel your strength. Eclettica, fine della seconda parte.